Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Liscia, morbida e dorata, o forse ruvida, macchiata, pruriginosa. Buongiorno a voi. Stamattina parliamo di pelle, di quella di chi è stata in vacanza, di quella di chi in vacanza non è andato. In linea con me il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis del gruppo San Donato di Milano, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il professor Di Pietro oggi è a disposizione per insegnarci a prenderci cura della nostra pelle, per mantenere i benefici dell'estate, ma anche per riparare qualche danno e per prevenire eventuali problemi che si ripresenteranno e come si ripresentano come ogni anno in autunno. Insomma, professore, dalla testa ai piedi, capelli e unghie comprese. Le faccio sentire, sicuramente se la ricorda, una canzone che ci riporta ai tempi dei... Eccoli qui, Righeira, l'estate sta finendo, adesso che l'estate sta per finire, vediamo, professor Di Pietro, cosa tenere, cosa buttare, cosa può essere capitato di buono alla nostra pelle. Partiamo dai vantaggi. Dunque, i vantaggi sono che noi, come animali diurni, abbiamo sicuramente avuto un beneficio dall'esposizione alla luce e anche al sole, sempre che tutto ciò sia avvenuto con le giuste regole, con le giuste quantità. Il sole è molto importante perché stimola il nostro sistema immunitario, quindi ci ha fortificato, e questo vale un po' a 360 gradi, ha stimolato il rinnovamento, la rigenerazione delle cellule della nostra pelle, quindi tutto sommato anche la pelle ne ritorna più forte, ecco, dalle vacanze e dall'aspetto anche più bello. Però certo, professore, per la maggiore ossigenazione. Come a dire, è tutto a un prezzo. La nostra pelle può apparire e sembrare più secca, notiamo qualche macchia, qualche rughetta, sì, in più, questo lo mettiamo un po' in conto. Sì, certo, ma diciamo che questa è anche tutto sommato una naturale conseguenza del nostro grande desiderio a stare di più, no, sotto al sole. Quindi inevitabilmente, io credo che nel 99% dei casi molte persone hanno poi ceduto, quindi sono rimaste un po' di più. Che cosa succede? Che un eccesso di raggi ultravioletti e anche di calore, non dimentichiamolo, a cui la nostra pelle è stata sottoposta, ha rotto un po' di più i legami tra le cellule della pelle e di conseguenza la pelle ci appare un po' più secca adesso in queste settimane, tende a squamarsi, anche perché la conseguenza è che i raggi ultravioletti hanno accelerato un po' il ricambio delle cellule, quindi si sono accumulate un po' più di cellule morte. E i vasi capillari, se non siamo stati così bravi da restare nei giusti limiti di esposizione al sole, i vasi capillari hanno un po' sofferto. Certo, si sono un po' stressati. Professore, certo, che cosa posso fare se mi ritrovo descritta in questo profilo? Sì. Pelle secca, capillari un po' sfiancati, macchiette? Allora, la prima cosa è il primo gesto quotidiano che noi facciamo, che è quello della detersione, del lavarci. Ecco, evitiamo di utilizzare saponi molto schiumogeni, perché la schiuma con i suoi tensioattivi tende a seccare ancora di più la nostra pelle. Quindi dei detergenti poco schiumogeni. Ecco, quando diciamo delicati, dobbiamo pensare alla schiuma, questo è un po' il nostro parametro. Sì. E una detersione delicata può essere utile. L'asciugamano di cotone morbido può essere utile, perché sfregandolo con delicatezza sulla cute, senza esagerare, ci fa allontanare, elimina, no, quell'accumulo di cellule morte superficiali, e più velocemente c'è il ricambio della, sì, della nostra pelle. Una buona crema idratante, questo può essere utile perché ricompatta le cellule, ricrea più velocemente i legami tra le cellule e questo favorisce l'idratazione superficiale e profonda della pelle. Adesso ci sono ottime creme. Sì. Mi dà un'indicazione? Ma allora, per scegliere quelle giuste? Sì, senza fare nomi commerciali, naturalmente basta leggere negli ingredienti, nelle cose che contengono e attualmente noi dermatologi puntiamo molto su creme ricche di fosfolipidi, di glucosamina, di fospidina, di vitamina C, la vitamina E. Ecco, questi sono un po' i nostri riferimenti in questo momento quando dobbiamo consigliare delle ottime creme idratanti che in questo periodo diventano estremamente utili. Tra l'altro, una pelle più idratata riesce anche a mantenere più a lungo il colore dell'estate, l'abbronzatura, che sappiamo ci rende belle, no? Da quell'effetto vacanza che noi vorremmo mantenere il più a lungo possibile. Quindi, ma oltre all'idratazione, che cosa si può fare? Ci sono tante proposte, anche un po' di luoghi comuni, allora se lei ci aiuta li prendiamo un po' in rassegna per capire quali sono le cose da fare, i consigli utili e quali invece sono le cose da evitare. Ad esempio, posso usare l'autoabbronzante? Potrebbe essere una buona idea? Dunque, l'autoabbronzante è molto utilizzato e io ricevo quotidianamente molte domande, no? Se si può utilizzare o no, se fa male o non fa male. Allora, non fa male, l'autoabbronzante non è pericoloso per la nostra pelle, tende a colorarlo un po', questo effetto dura qualche giorno. Bisogna solamente stare attenti a distribuire bene la crema autoabbronzante per evitare quell'effetto leopardo. Cioè, zone più scure. Come ti trovo bene? Sei tutta leopardata. Ecco, che dipende solo da come viene spalmato, distribuito, no? L'autoabbronzante, però non è pericoloso, non è tossico, quindi tutto sommato meglio un autoabbronzante che pensare di stare tanto tempo sotto delle lampade a ultravioletti, perché quelle chiaramente sappiamo ormai da anni che un eccesso può essere pericoloso. Ma quindi l'autoabbronzante promosso. Integratori. Integratori utili, direi. Sì. Utili. Ormai sappiamo scientificamente, è stato comprovato che alcune sostanze come i flavonoidi, la stessa vitamina C, la biotina, insomma, sono utili per aiutare a riparare un po' i danni, no, del sole eccessivo, soprattutto sui vasi capillari, e favorire anche l'attività e la vita delle cellule. Quindi gli integratori possono sicuramente esserci di aiuto. Io prima accennavo alle lampade, no? Con sì, i raggi ultravioletti. Ecco, e lì infatti io vorrei tornare, perché le lampade sono cambiate. Sì, perché negli ultimi anni noi sempre di più stiamo scoprendo l'importanza della luce sulla nostra pelle e sul nostro organismo, perché non esistono solo i raggi ultravioletti che, come ormai sappiamo, possono essere dannosi se colpiscono in eccesso la nostra pelle, ma abbiamo visto che certe luci, soprattutto quelle che noi vediamo come giallo-arancione, sì, possono essere invece utili, perché i fotoni che compongono queste luci, quando raggiungono le nostre cellule, le stimolano e favoriscono la rigenerazione. Noi anni fa, come istituto dermoclinico, abbiamo cominciato ad utilizzare queste lampade che emettono una luce attraverso dei LED che sono focalizzati su questo tipo di colore, per migliorare e guarire più velocemente le ferite o le piaghe. E abbiamo provato in questi anni, comprovato che sono molto efficaci nel rigenerare la pelle. E ormai da 4-5 anni stiamo utilizzando queste particolari lampade LED che emettono questa luce sul giallo-arancione anche adesso al ritorno dalle vacanze, per molti, fini, no, altrimenti, per ecco, fini anche estetici, perché stimolando la rigenerazione della pelle possono aiutare a mantenere ancora di più l'abbronzatura, ma a favorire anche una idratazione profonda e ridare un po' più di elasticità velocemente alla pelle dopo un bagno di sole durato un paio di mesi, insomma, come adesso l'estate. Ecco, professor Di Pietro, però lo sappiamo che a volte l'estate lascia il segno. Penso ad esempio ai brufolini che possono comparire sul viso anche di persone che non sono più giovanissime. Che fare? Sì, ma anche perché è molto frequente in questo periodo, soprattutto in chi è predisposto ad avere la pelle grassa o avere un po' di acne o qualche brufoletto, osservare un peggioramento di questi piccoli brufoli. Io ho molti pazienti che mi chiamano, mi mandano fotografie su WhatsApp con queste facce piene di tutti questi furuncoletti che in estate o sul fine dell'estate adesso cominciano così a comparire. Sicuramente può essere utile utilizzare una vecchia sostanza, un vecchio rimedio da anni e che noi dermatologi recentemente abbiamo scoperto, ad esempio l'argilla. Delle maschere di argilla verde, adesso ci sono delle nuove formulazioni arricchite con sostanze antibatteriche naturali, come ad esempio la Lusil, possono essere molto utili per rimettere in equilibrio le ghiandole sebacee e quindi cercare di eliminare questi piccoli brufoletti. Così come anche, e ricordiamolo, evitare di aggredire la pelle con saponi troppo schiumogeni, ancora una volta anche per il viso, perché possono chiaramente indebolirlo. La mascherina, che è importantissima e utilissima da mettere, può su una pelle come questa, con tanti piccoli brufoletti, a volte col caldo umido, peggiorarli. E in questo caso, per fortuna, abbiamo creme che contengono sostanze antibatteriche, sostanze riequilibranti come creme con Alusil o con Aluchina, che combatte anche la dermatite seborroica, che adesso ricomincia in maniera importante. Ecco, direi che i rimedi ci sono, quindi per chi si trova a confrontarsi con brufoli e brufolini, maschere di argille, magari di argilla verde certo, creme con Alusil, Aluchina e detergenti delicati. Può essere molto più utile un latte detergente a risciacquo piuttosto che i comuni saponi schiumogeni. Ecco, in chi ha una pelle che ha perso un po' il suo equilibrio, direi che lavare il viso con un latte detergente a risciacquo è sicuramente preferibile. Professore, grazie per essere stato con noi. Torni presto a trovarci, intanto le auguro una buona giornata. Grazie, un abbraccio a tutti e buon ritorno e buona ripresa, crociando le dita su tutto. Ci siamo capiti, faremo tesoro dei suoi consigli, l'aspettiamo. Buona giornata, grazie. Presto, buona giornata, grazie Nicoletta. E per oggi è tutto, come sempre vi aspetto subito dopo le 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.